Ehi, hey, Anna, ci beccavamo nel bando, sopra il booster. Hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questa diesel. Bando sopra il booster. Hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questa diesel. Infami tornano in fila. Ho detto alla mamma che mo vado a Milan. Te non dare opinioni se vesti fila. Giuro che sei un bambino, non sei 2000. Vorrei avessi la fame la mia per capire le cose. Divido l'acqua e mose. Vi vedo un po' mosse, situazioni e cose. Dico cosa le faccio, no, non parlo e basta. Tu non ne so, fa meglio smetti col rap. Oppure talent, giuro, fanno per te. Per fare sti bands mi divido in tre. Le sono un minuto, cazzo ho fatto fra te. Fategli zanza e poi passa la stessa. Piangete, meglio vi sedete col pallone in rete. Non rappi di nulla, zia, proprio di niente. Se chiedo in giro non dico che sei demente. Bando sopra il booster. Hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questo diesel. Bando sopra il booster. Hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questo diesel. Chiamiamo nel bando, sopra il booster. Hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questo diesel. Bando sopra il booster. Hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questo diesel. Do il braccio in zero gang. Come una se lo pendo. La rue c'est pas Nintendo. Ça t'étage sur un go. Piu piu piu piu. Dorée platine c'est le gang. Comment c'est le bando. Piu piu piu. La rue c'est pas Nintendo. Ça t'éteint sur un go. Comme en Italie. Dans la zone y'a des boxeurs comme en Medali. D'autres qui font du chiffre comme le cartel Cali. Ma jolie, je conduisais depuis oui, je savais pas lire. T-Max, Porsche, Targa. Faut toujours un petit couteau sous la parka. Parce que y'a des tarbas. Dans le 13 à zone au quartier sous pare-balles, pare-balles. Aïe. J'suis sous Kana, j'tane la aïe. T'inquiète, j'suis au 7 sur bête banane aïe. GS, RS, business aïe. Ça veut Hublot de ma Rolex aïe. Ya, ya, la vie, ya, ya. J'suis sur le scooter, coupe militaire. J'fume la moula, je m'y perds. Que j'arrive en grrr, la voiture elle fait du bruit. Ils font les gantés, ils font les gros, ils ont pas un gris. Piu, piu, piu, piu, impact sur le pare-brise. Brem, brem, brem, brem. J'accélère quand j'suis en crise. Ça dévêche en S, doré de platine sur la veste, hein. J'reste modeste, hein. Ce qui m'arrive, c'est le test, hein. Qui veut test, hein. J'vais m'en faire un fest, hein. Je repasse aux traites quand je passe sur la gymnaste. Bando sopra il booster. Hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questa diesel. Bando sopra il booster. Hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questa diesel.